America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. Istanbul was Constantinople, now it's Istanbul, not Constantinople. Been a long time. Istanbul, not Costantinopoli. Avete sentito questa canzone molto divertente, una canzone del 1953 che ha avuto un grande successo in America anche a livello internazionale, scritta da Jimmy Kennedy e da Nat Simon, che ha scritto invece la musica. Ecco, perché vi parlo di questa canzone? Ma perché la trovo molto attuale, perché rappresenta sul piano simbolico quella dicotomia turca, Istanbul o Costantinopoli, questa Turchia che è sempre stata un po' con un passo in Europa e nell'Occidente e l'altro nel Medio Oriente e nelle vecchie radici più conservatrici e islamiche. La Turchia che è membro della NATO, che vorrebbe far parte dell'Unione Europea, ma che dall'altra sostiene e difende certe frange del fondamentalismo islamico. Ecco, questa dicotomia la trovo un po' riassunta anche in un libro molto bello, devo dire, che è uscito in questi giorni, che si chiama Zie e spie. È un libro di Sigmund Ginsberg. Ginsberg è stato corrispondente dell'Unità dagli Stati Uniti, anzi ci eravamo conosciuti proprio qui a New York, poi da Parigi, prima ancora dall'Iran, quindi un corrispondente internazionale, e in questo libro lui risale le sue radici, che sono radici che sono profondamente identificate in Istanbul, dove lui è nato da una famiglia tra l'altro di rifugiati, perché la Turchia, Istanbul, già allora accoglieva, negli anni all'inizio del secolo, insomma, accoglieva i rifugiati. Erano rifugiati dalla Romania, c'erano persecuzioni antisemite e questi trovarono la possibilità di vivere proprio a Istanbul. Istanbul che poi diventa il volano per due personaggi importanti di questo libro di Ginsberg: per la zia Perla, che faceva l'entraîneuse nell'Europa dell'Est e che poi sposa un grande industriale, per lo zio Bernard, che invece diventa l'agente segreto di Stalin, pensate, addirittura di Stalin a Parigi. Ecco, Sigmund è con me ai microfoni di America 24. Buongiorno Sigmund. Buongiorno. Ecco Sigmund, grande romanticismo, devo dire, in questo tuo libro, perché ci sono dei personaggi romantici, ma anche grande attualità, questo dualismo turco. Ecco, secondo te dove si sono perse le radici che hanno consentito a questi tuoi zii di diventare personaggi europei partendo da Istanbul, da una radice turca? Beh, la Turchia doveva essere Europa. Forse abbiamo sbagliato noi a non incoraggiarla in questi ultimi anni. Era all'inizio del secolo una terra di accoglienza, perché l'Europa era il posto da cui si scappava. Adesso invece rischiamo di perderla for good, come dicono gli americani. Ecco, di perderla per sempre. Ti dirò che sono passato dalla Turchia per il G20, ho visto un paese però vibrante anche dal punto di vista economico, molto attivo, ho visto dei giovani molto occidentali. Di nuovo questo dualismo lo si vede ogni giorno. Poi vediamo anche che la Turchia con Erdogan attacca la Russia e abbatte un aereo turco. Ecco, come te lo spieghi? Beh, intanto ti raccomando, i due, non so quale dei due sia meglio dell'altro, comunque si spiega perché affonda le sue radici in due secoli di guerre tra Turchia e Russia. Dalla guerra di Crimea in poi si odiano, e tutto nasce dal fatto che anche lì c'è un elemento di responsabilità dell'Occidente. La prima guerra mondiale voleva spartire la Turchia, doveva essere una spartizione a tre, poi uno dei tre, cioè la Russia, si è tirata fuori perché hanno fatto la rivoluzione russa, gli altri due si sono spartiti l'intera area in cui oggi c'è il marasma che conosciamo, e tutto nasce da lì. C'è però questo triangolo, Russia, Turchia, questo tuo zio che diventa l'agente di Stalin a Parigi, insomma, erano altri tempi. Voglio farti ascoltare questa canzone. Ecco, questa è una canzone del Fronte Popolare che, da quel che tu ci racconti, tuo zio ha avuto un ruolo importante nel costituirlo come partito. Era una Francia, questa Francia negli anni 30, molto aperta, la Francia che ci ha dato la modernità, ed è quella stessa Francia contro cui il movimento estremista islamico si ribella e attacca. Ecco, dacci una tua impressione su quel che è successo. Esattamente. La Francia del 36 è la Francia che introduce la vera modernità, cioè la gioia di vivere, di trovarsi al ristorante, di fare le vacanze, ed è proprio questo che viene poi colpito, minacciato in questi giorni. Certo, mi fa piacere pensare che il Fronte Popolare, con tutta questa carica di modernità, l'avesse inventato mio zio Bernard, pur da agente di Stalin. No, rien de rien. No, je ne regrette rien. Edith Piaf, Je ne regrette rien, grande canzone, non rimpiango niente. Sigmund, dal tuo libro, ma anche un po' dalla nostra chiacchierata, quando tu pensi allo zio Bernard, alla zia Perla, a Istanbul, insomma, trasuda, devo dire, un po' di nostalgia. Ecco, c'è qualcosa che tu rimpiangi pensando a quegli anni e a quello che hai voluto raccontarci in questo libro? Quegli anni, cioè la prima metà del secolo scorso, furono anni terribili, però hai ragione. C'è un elemento di nostalgia, nel senso che forse c'erano personaggi che oggi non ci sono più, c'era la grande politica che oggi forse non c'è più e c'era forse un elemento che anche oggi manca, che è quello della speranza, del pensare di poter cambiare decisamente il mondo in meglio. Ma non vorrei dare l'impressione di un eccesso di pessimismo. C'è ancora la possibilità di cavarcela, anche con un minimo di leggerezza. Per esempio, mi viene in mente il modo in cui gli ebrei di Istanbul un detto avevano, hanno ancora, Allah büyük amakai küçük, vuol dire Allah è grande, ma la barca è piccola. È vero che la barca è piccola e rischia di rovesciarsi da un momento all'altro, però io sono convinto che ce la possiamo fare. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, siamo in clima natalizio, un classico da feste natalizie. Let It Snow di Dean Martin. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping, and I brought me some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. And the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you'd love me so, let it snow and snow. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!